Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, ormai da molte settimane siamo col fiato sospeso vedendo che cosa succede nei mercati finanziari, cercando di capire quali possono essere le conseguenze per i nostri portafogli e la nostra vita, e quindi vi propongo oggi un libro che mi sembra particolarmente adatto per capire che cosa è successo. L'autore è Robert Shiller, un professore americano di Yale che ha appena pubblicato Finanza Shock, come uscire dalla crisi dei mutui subprime, pubblicato da Egea, 158 pagine, 16 euro, tradotto da Nanni Negro. Il titolo è un po' a effetto nella versione italiana per questo libro, che descrive in poco più di 100 pagine che cosa è successo veramente sui mercati finanziari, quali sono state le origini di questo sconquasso e soprattutto cerca di illustrare come uscirne. È un libro utile per tutti, non soltanto per gli specialisti, perché il professor Shiller scrive in maniera molto chiara, un libro breve. Lo stile non è uno stile specialistico e dà a tutti la possibilità di capire come sia stato possibile che il mercato più finanziario più raffinato del mondo, quello americano, sia caduto in questa colossale trappola dalla quale tutto il mondo ora cerca di uscire. Shiller insiste su un punto che voglio sottolineare, quello secondo il quale, a parte gli errori commessi, la finanza resta centrale per lo sviluppo. Non si può demonizzare la finanza in quanto tale. Scrive infatti Shiller: nonostante la crisi attuale, negli ultimi decenni la finanza moderna ha prodotto risultati di portata storica e funge da potente motore della crescita economica. Perciò l'autore non condivide la diagnosi eccessivamente pessimista di taglio quasi millenarista, tipo quella sulla fine di Wall Street o addirittura sulla fine del capitalismo, ma insiste sull'obiettivo di costruire un'autentica democrazia finanziaria, come la chiama lui. Bisogna evitare che esplodano, o meglio che si manifestino, queste bolle. Bisogna migliorare l'informazione, bisogna estendere l'ambito dei rischi coperti e bisogna assicurare con opportuni strumenti più sicurezza a tutti gli utenti, a tutti i risparmiatori, scrive. Questa ricetta, raccomanda Franco Bruni nella lunga postfazione che conclude il volume, va accompagnata a una ridefinizione e rafforzamento delle regole, proprio per evitare, come scrive Franco Bruni, che insegna all'Università Bocconi, la critica qualunquista e incompetente dei mercati finanziari, il catastrofismo populista e la caccia alle streghe. E quindi per riabituarci a ragionare anche dinanzi una vicenda certo di importanza epocale. Questo catastrofismo, che certo si è diffuso in queste settimane, riporta in auge un titolo classico che viene opportunamente riproposto da Longanesi in un momento che segna la particolare attualità di questo titolo, Il tramonto dell'Occidente. È un lungo saggio, sono oltre 1500 pagine, che scrisse tra il 1913 e il 1922 lo studioso tedesco Oswald Spengler, vissuto tra il 1880 e il 1936. È pubblicato appunto da Longanesi, curato da Rita Calabrese Conte, Margherita Cottone Furio Iesi, tradotto da Giulio Sevola, introdotto in questa edizione da Stefano Zecchi, costa 50 euro. Si tratta di un'opera decisiva del Novecento che ebbe un grande successo al suo apparire, poi fu molto discussa, criticata, in un certo senso anche rimossa per le dure critiche che rivolgeva all'Europa e alle sue tre costruzioni ideologiche che la dominarono nel Novecento, come nota Stefano Zecchi appunto, cioè la democrazia parlamentare, il socialismo e il nazismo, di cui Spengler non fu affatto un precursore come alcuni lo lessero, avendo giudicato Hitler, come ricorda sempre Zecchi, un Dummkopf, un fesso. È un libro anche erudito, oltre che complesso, ma che certo testimonia quel sottile disagio che, almeno dopo la Prima Guerra Mondiale, non ha più abbandonato l'Europa, naturalmente con alti e bassi, e che oggi la fa sentire coinvolta in una crisi più generale e sistemica. Ma sentiamo su questo libro il parere di uno storico contemporaneo, Francesco Perfetti, che è docente di storia contemporanea all'Università Luiss di Roma. Buongiorno a Francesco Perfetti. Professor Perfetti, insomma, c'era bisogno di questa riedizione del tramonto dell'Occidente? Ma forse bisogno no, è significativo invece il fatto che sia ristampato il tramonto dell'Occidente in un momento nel quale appunto l'Occidente si trova in una situazione di profonda se non né crisi, quantomeno di sollecitazione rispetto ad altre culture, come per esempio la cultura islamica. Vorrei far notare che in fondo Il tramonto dell'Occidente è la classica opera della letteratura della crisi. I momenti nei quali quest'opera ha successo sono, a parte appunto il 1918, quando siamo proprio nel momento tutto sommato della fine della grande crisi europea, poi nell'immediato dopoguerra e infine adesso di fronte alle sfide della globalizzazione. Questo libro di Spengler, peraltro, parla di un Occidente nel quale non ci sono ancora gli Stati Uniti come grande potenza. Sì, certamente, ma è un libro che, non dimentichiamolo, è un libro di pura e semplice filosofia della storia che si inserisce nella tradizione dello storicismo tedesco a partire da Diltei in poi e che ha una dimensione fortemente naturalistica e meccanicistica. Ecco, infatti non crede che questo libro in qualche misura contribuisca a consolidare i rischi di una visione un po' millenaristica, per cui appunto la storia è scritta e c'è anche poco spazio per intervenire sul corso della storia? Certo, certo, questo è fuor di dubbio, come pure è fuor di dubbio che c'è una dimensione fortemente pessimistica in quest'opera, nella quale il destino è tutto scritto. Non è un caso che il grande Benedetto Croce, quando sentiva parlare del tramonto dell'Occidente, faceva gli scongiuri. E lei, che è uno storico contemporaneo, che rischi vede oggi, alla luce certo anche delle sollecitazioni che vengono da altre civiltà, come lei ha ricordato, ma anche della crisi finanziaria che rimette in discussione un modello capitalistico? Ma io sono sostanzialmente ottimista, perché non credo che la crisi finanziaria rimetta in discussione il modello capitalistico. Non dimentichiamo che il capitalismo e più in generale l'economia di mercato è un'economia che attraversa fisiologicamente momenti di crisi e momenti di ripresa. Io non credo appunto a tutte le interpretazioni di carattere deterministico della storia, più in generale a tutte le filosofie della storia. Quindi concludiamo con una nota di ottimismo su questo libro fortemente pessimista. Un libro fortemente pessimistico che però, tutto sommato, e con questi limiti e con queste avvertenze, è un libro anche di grande fascino. Grazie a Francesco Perfetti. Arrivederci. Una divertente e suggestiva rilettura della crisi finanziaria è quella che propone Sigmund Ginsberg, giornalista, in un suo intervento su Moby Dick contenuto nel libro Risse da stadio nella Bisanzio di Giustiniano. È pubblicato da Rizzoli, 406 pagine, 19 euro. Volume che raccoglie gli interventi scritti per il Foglio da Ginsberg su grandi momenti del passato o su grandi libri che l'autore rilegge alla luce dell'attualità. Rilegge questi momenti storici, questi grandi libri, come se li dovesse ambientare nel mondo di oggi. Per esempio, per Moby Dick offre questa lettura che certo recupera alcuni toni ai quali ci siamo abituati in queste settimane. Il Moby Dick è pieno di immagini di natura finanziaria. È un mondo di mercati senza confini, di flussi inarrestabili, un continuo alternarsi di bonacce e terribili tempeste da un oceano all'altro. Tutti stiamo nella stessa barca. Se scende il Dow Jones, il minuto dopo tocca al FTSE. Se piange Wall Street, non c'è verso che continuino a ridere Londra e Parigi, e nemmeno Shanghai o Tokyo. Se affonda l'economia americana, non si salva quella europea, e neppure è sicuro che si salvino il boom cinese o indiano. Tutti attaccati alla stessa corda, tutti interconnessi, interindebitati. Oh, life! O casi della vita. Eccomi qui, fiero come un dio greco, eppure indebitato a questo cretino per un osso su cui stare in piedi, dice il capitano Achab in uno fra i più shakespeariani dei suoi soliloqui, rivolto al povero carpentiere che gli sta approntando una nuova gamba artificiale di osso di balena che sostituisce quella divoratagli dalla balena Moby Dick. E ricordo che l'ultima edizione pubblicata in Italia dell'immortale capolavoro di Herman Melville, Moby Dick, quella di Alessandro Ceni, per Feltrinelli, 694 pagine, 10 euro. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Affrontiamo adesso un altro tema di cui si discute molto in questi giorni, immagino anche in molte famiglie italiane, quello dell'università, di cui discute Roberto Perotti, che è un economista all'Università Bocconi di Milano, nel libro L'università truccata, gli scandali del malcostume accademico, le ricette per rilanciare l'università, è pubblicato da Einaudi, 184 pagine, 16 euro. Si tratta di un pamphlet decisamente impietoso sulle condizioni dell'università italiana, che comincia con lo smontare molti luoghi comuni che abbiamo sentito anche ripetere nelle manifestazioni di queste settimane. Dice Perotti che non c'è niente da fare. L'università italiana è, con le dovute eccezioni, alla deriva. Continuare a pascersi di retorica non avvicinerà la salvezza. E quindi, per raggiungere questo obiettivo di smontare quelli che sono i luoghi comuni, di andare a fondo della situazione dell'università italiana, Perotti cerca di esaminare i fatti, a partire dalla presunta insufficienza finanziaria. Nota Perotti che in realtà la dotazione finanziaria dell'università italiana non è molto distante da quella delle università inglesi. Poi Perotti affronta un tema di cui pure si è molto parlato anche grazie a questo libro, cioè il nepotismo e il clientelismo. E qui troviamo tutti i dati con nomi e cognomi delle famiglie coinvolte, c'è un complicatissimo albero genealogico, per esempio, che dimostra la presenza, direi piuttosto pervasiva, di alcune famiglie in una grande università italiana, e qui troverete tutti i nomi. Perotti se la prende addirittura con la sua stessa università, la Bocconi, che paga anch'essa, scrive, i condizionamenti culturali che pervadono tutta l'università italiana, quindi è un libro decisamente onesto dal punto di vista intellettuale. Come uscirne? Il libro di Perotti cerca di indicare alcune soluzioni: premiare il merito, liberalizzare gli studi, abolire i concorsi, abolire il valore legale del titolo di studio, insomma attrarre studenti e insegnamenti migliori nelle università italiane. E affronta in particolare Perotti nel suo libro un tema di cui molto si è discusso in questi giorni, che vi propongo direttamente con le parole dell'autore. Questa guerra di religione sull'università, pubblica o privata, è il frutto di un fraintendimento di fondo. Il problema non è la contrapposizione fra pubblico e privato, ma come vengono assegnate le risorse. Il settore pubblico può benissimo finanziare l'università e allo stesso tempo costringere gli atenei a competere per le risorse che vengono loro messe a disposizione. Negli Stati Uniti il finanziamento pubblico alla ricerca è molto consistente e funziona molto bene, perché è basato sul sistema della peer review. In Italia funziona molto meno bene, non perché sia pubblico, ma perché viene allocato con criteri ben lontani dalla peer review, come viene intesa dalla comunità scientifica internazionale. Un aspetto caratteristico della condizione universitaria, ne parla anche Perotti, è l'invecchiamento dei ricercatori. I nostri ricercatori, i nostri docenti sono mediamente molto più anziani di quelli all'estero, e questo è uno dei temi che ritroviamo nel libro di uno dei più importanti demografi italiani, Massimo Livi Bacci, che ha pubblicato col Mulino Avanti giovani alla riscossa, come uscire dalla crisi giovanile in Italia, 118 pagine, 10 euro. Livi Bacci osserva come in Italia ci sia sempre meno spazio per i giovani, e questo è anche un paradosso, perché sappiamo tutti che per ragioni demografiche il numero dei giovani diminuisce e quindi dovrebbe aumentare il loro peso. Meno giovani ci sono, più dovrebbero essere ricercati, e invece meno giovani ci sono e meno lo spazio per i giovani è presente nella società italiana. E infatti scrive Livi Bacci che il cammino verso l'età adulta si è fatto più lento, si finiscono gli studi più tardi, si entra dopo nel mercato del lavoro, ci si trattiene più a lungo nella famiglia dei genitori, si mette su famiglia con circospetta prudenza. Una sindrome del ritardo attanaglia le nuove generazioni. È urgente, quindi, propone Livi Bacci, una riscossa, come la chiama lui, per riavviare i meccanismi dello sviluppo. Riscossa nel senso di riconquistare liberare, aggiunge lo stesso autore, quello spazio di azione politico, sociale ed economico dal quale sono stati esclusi i giovani o che hanno abbandonato, con danno per sé e per lo sviluppo del paese. E anche Livi Bacci si avventura a proporre alcune soluzioni: individuare una leadership, modificare le norme, magari introducendo delle quote o aumentando il finanziamento per finalità quali le borse di studio, i contributi per l'affitto, le detassazioni del lavoro giovanile, o ancora rafforzare l'autonomia giovanile, per esempio con la proposta che Livi Bacci lancia di un fondo di cui dotare ogni neonato, eventualmente da integrare con un prestito di autonomia da restituire negli anni, che possa consentire al raggiungimento della maggiore età di poter contare su un piccolo capitale che permetta al giovane di avviare una propria attività o comunque che gli dia degli spazi di autonomia e di scelta. Abbiamo parlato di università, affrontiamo il tema che è tipicamente svolto nell'università, e cioè la ricerca scientifica, e lo cominciamo ad affrontare questo tema ricordando la vita breve e mirabile, come recita il sottotitolo del libro che adesso vi presento, di Evangelista Torricelli. Il libro si intitola L'erede di Galileo, l'autore è Fabio Toscano, che è un fisico e divulgatore assai efficace, 190 pagine, 15 euro, l'editore Sironi. Di Torricelli è caduto un paio di settimane fa il quarto centenario della nascita, che avvenne a Roma da famiglia romagnola. Torricelli poi sarebbe morto nel 1647, quindi poco meno che quarantenne, ma avrebbe segnato la storia della fisica, inventando, come moltissimi ricorderanno, tra l'altro il barometro a mercurio. E questo proprio gli ha dato la notorietà, ma in realtà Torricelli andrebbe conosciuto di più, anche perché fu uno degli allievi più importanti, forse quello prediletto, da Galileo Galilei, fu precursore del calcolo infinitesimale, fu insomma, come ricorda questo libro, un autentico eroe della rivoluzione scientifica, insomma l'Archimede di Firenze, come fu chiamato. A Firenze era arrivato appunto da Roma attraverso un amico ed estimatore di Galilei al quale era stato presentato. E nel libro di Fabio Toscano troviamo la vita di Torricelli, il suo sodalizio con Galilei, di cui il libro ci ricorda anche in maniera ampia l'innovazione della ricerca scientifica, e una descrizione troviamo anche assai chiara dei grandi risultati scientifici ai quali giunse Torricelli. Facciamo un salto verso un altro gigante della fisica, Albert Einstein, con il libro di Sander Buys, che è uno studioso olandese di cui Dedalo propone Relatività, guida illustrata molto speciale, 120 pagine, 18 euro, tradotto da Andrea Migliori. Questo è un libro adatto a chi si voglia accostare a questa autentica rivoluzione del moderno pensiero scientifico, cioè la teoria della relatività di Einstein, ai quali quest'opera offre una guida assai agevole, quindi di nuovo un libro assai divulgativo anche per l'impianto grafico, nel quale giocano una parte importante le immagini che accompagnano il testo, che consentono di cogliere graficamente i segreti della grande scoperta di Einstein. E a questo punto... Il confettino. Vi propongo oggi due titoli che hanno avuto un enorme successo all'estero e che parlano di due esperienze parallele e analoghe, come si viveva sotto il comunismo. Il primo libro di un ceco, Peter Sis, che adesso abita negli Stati Uniti e che ha vinto molti prestigiosi premi per libri per ragazzi. L'opera che vi presento oggi è Il muro, crescere dietro la cortina di ferro, è pubblicato da Rizzoli, 16 euro, tradotto da Beatrice Masini. Con parole e immagini ritroviamo qui la vita del bambino nato proprio all'inizio dell'avventura, triste avventura della cortina di ferro, e con tratti leggeri ma efficaci vediamo crescere questo bambino al di qua della cortina di ferro, e quindi crescere indottrinato nella scuola comunista, nelle attività sociali comuniste, fino alla scoperta della libertà con la caduta del muro di Berlino. L'altro libro invece è di un piccolo cinese, l'autore Chen Jiang Hong, si intitola Io e Ma, La piccola guardia rossa, è pubblicato da Babalibri, 22 euro, tradotto da Elena Pasini. Anche questo è stato un grande successo internazionale per un libro illustrato nel quale viene descritta la Cina dalla fine degli anni 60 in poi, quindi dall'inizio della rivoluzione culturale, che qui viene descritta nelle espressioni quotidiane anche di violenza, sopraffazione e sofferenza, con gli occhi di un bambino che cresce e che alla fine abbandonerà anche lui il suo paese per ritornarvi ogni tanto e per ritrovarvi, quando ci torna, l'albero all'ombra del quale era cresciuto con i nonni e il resto della famiglia. E con questo ringrazio Laura Marchesi, Daniela Casagrande in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Passo la linea al respiro di Laura Bettini. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.